Guglielmo a capo in giù. Guglielmo aveva imparato a stare a capo in giù. Solo ieri barcollava sulle mani, ma oggi rimaneva fermo come se fosse nato in quella posizione. «Guarda, mamma, ce l'ho fatta!» Aveva fatto esercizio per giorni e giorni e oggi finalmente aveva imparato. «Bravo, bravo!» rispose un po' distratta la mamma, occupata intorno ai fornelli. «Ma mamma, non mi stai nemmeno a guardare!» La madre alzò un momento la testa, si pulì le mani infarinate e fissò Guglielmo, che stava con i piedi in aria, con le mani dove avrebbero dovuto esserci i piedi, rosso in viso e con i capelli penzolanti sul pavimento. «Sciocchino, ti darà di volta anche il cervello!» disse. Guglielmo si rigirò e si sedette sul pavimento. La stanza gli ruotava intorno, poi si fermò. «È solo la stanza che mi ha dato di volta e non il cervello», disse. Si rimise in posizione e andò in giardino e poi per la strada, sperando che ci fosse qualcuno per cui esibirsi. E infatti qualcuno c'era. Il postino stava venendo proprio verso di lui. Guardò stupefatto Guglielmo a capo in giù, poi disse: «Ottimo, ottimo davvero!» «Posso rimanere così per ore», spiegò Guglielmo. In realtà avrebbe fatto meglio a dire minuti. A testa in giù, infatti, i minuti passano lentamente e sembrano ore. «Io non ricordo di essere mai stato capace di farlo», disse il postino. «Dovresti entrare in un circo». Guglielmo si raddrizzò immediatamente, raggiante di contentezza. «Lo crede davvero?» «Ma certo», insiste il postino. «Chiunque possa restare per ore a testa in giù, è un peccato che stia su due piedi». «Sarebbe divertentissimo lavorare in un circo», pensò Guglielmo. «Sarebbe diventato come l'uomo che cammina sul filo o come quello sui trampoli. Lo avrebbero chiamato Guglielmo a capo in giù e il suo nome sarebbe stato scritto a grandi lettere sui manifesti». Per tutta la settimana Guglielmo fece esercizio in camera sua. Stava a testa all'ingiù di mattina, nel pomeriggio e alla sera prima di andare a letto. Usciva solo se la mamma gli faceva fare delle commissioni. Per esempio, se lo mandava a ritirare delle scarpe dal ciabattino, faceva quasi tutta la strada sulle mani. Un venerdì, un circo arrivò in paese e Guglielmo gli andò incontro. Era un circo piccolino che stava raggiungendo un circo più grande che era fermo lì vicino alla città. Si fermavano qua e là lungo il cammino, davano qualche spettacolo e così si pagavano le spese di viaggio. Alla testa della colonna veniva una fila di carrozzoni argentei con delle graziose tendine ai finestrini. Poi dei pony cavalcati da ragazzi e ragazze che sembravano avere la stessa età dei cavalli. E per ultimi due autocarri. Guglielmo, insieme ai suoi amici del villaggio, seguì la carovana fino a che giunse nel posto stabilito. Guglielmo rimase lì a guardare molto tempo, anche quando gli amici si erano stufati ed erano andati a casa. Guardava come scaricavano gli autocarri e come venivano fissate le giostre. Guardò come montavano il tendone principale, che sembrava un teatrino. Rimase tanto a lungo che alla fine uno degli uomini lo interpellò. «Non sarebbe ora che tu tornassi a casa, figliolo?» «Voglio entrare nel circo», disse. «Oh, davvero? E cosa sai fare di tanto speciale?» «So camminare sulle mani», replicò Guglielmo. «Così?» Fece una giravolta, mise le mani per terra e rimase a capo in giù, dritto come il palo che teneva su il tendone. «Niente male», disse lentamente l'uomo. «Niente male davvero. Posso entrare nel circo allora?» Torna domani. Ora sono troppo stanco per decidere. Guglielmo andò a casa e fece esercizio ancora più a lungo delle altre volte. Ora riusciva anche a mangiare a testa in giù. Provò a bere, ma l'acqua gli entrò nel naso e lo fece starnutire. Non si scoraggiò e continuò a provare. Voleva entrare nel circo il mattino seguente.